Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Quando poi, entro un termine molto più breve di quanto Knecht avesse previsto, arrivò la risposta dell'autorità, Tegularius non ne fu informato. Lo scritto, venuto da Hirsland, diceva: Al reverendo Ludi Magister Walzel. Stimatissimo collega, sia la direzione dell'ordine, sia il collegio dei magistri hanno preso nota con non comune interessamento della vostra missiva così cordiale e profonda. Gli sguardi retrospettivi alla storia e le preoccupazioni per l'avvenire hanno avvinto la nostra attenzione e certamente qualcuno di noi rivolgerà ancora il pensiero a queste riflessioni assillanti e in parte non ingiustificate per trarne profitto. Noi tutti abbiamo riconosciuto con gioia e lode il sentimento che vi anima, il sentimento del Castalio autentico e disinteressato, l'affetto fervido e connaturato verso la nostra provincia, la sua vita, i suoi costumi, un affetto impensierito e in questo momento un poco ansioso. Con non minore gioia e lode abbiamo avvertito la nota personale e l'atmosfera presente di codesto affetto, la sua abnegazione, il desiderio di agire, lo zelo, la serietà e il tratto eroico. In tutto ciò ritroviamo il carattere del nostro Ludi Magister, la sua energia, il suo fuoco, il suo coraggio. Nel giudicare in seguito le vostre comunicazioni, i vostri moniti, le vostre preghiere, l'autorità non ha potuto raggiungere altrettanta unanimità. Nella seduta che si tenne in proposito fu discusso vivacemente soprattutto il quesito fino a qual punto sia accettabile la vostra opinione delle minacce incombenti sulla nostra esistenza, nonché il quesito circa la portata e l'eventuale vicinanza dei pericoli. E la maggior parte dei presenti ha preso evidentemente sul serio questi problemi e vi si è accalorata. Ma dobbiamo comunicarvi che su nessun punto della discussione si è ottenuta una maggioranza di voti in favore del vostro concetto. Soltanto la fantasia e il carattere lungimirante delle vostre considerazioni storico-politiche furono approvati, mentre in particolare nessuna delle vostre ipotesi, o diciamo pure profezie, fu accettata in pieno, né giudicata convincente. Il vostro concetto dell'odierna situazione mondiale e le vostre previsioni hanno scosso la maggior parte dei colleghi. Alcuni sono rimasti persino sconcertati, ma per quanto molti oratori abbiano manifestato il loro rispetto per la vostra erudizione e il vostro acume, nemmeno su questo punto si è trovato il consenso della maggioranza. Anzi, al contrario, ha predominato la tendenza a giudicare le vostre comunicazioni notevoli e di grande interesse, ma esageratamente pessimistiche. Vogliamo essere brevi, ma restiamo sempre a disposizione per spiegazioni a voce. Da questo conciso rendiconto voi, stimatissimo, potete già rilevare che il vostro memoriale non ha avuto quell'effetto che forse vi aspettavate. Ciò è dovuto in gran parte a ragioni oggettive, a divergenze sostanziali fra le vostre attuali vedute e aspirazioni e quelle della maggioranza. Ma vi sono anche motivi formali. Ci sembra che una discussione diretta fra voi e i colleghi sarebbe stata molto più armonica e positiva, e non solo codesta forma di referendum scritto ha ostacolato la vostra richiesta, ma un ostacolo ancor maggiore è stata l'idea, inconsueta nei nostri rapporti, di accoppiare una comunicazione ai colleghi a una supplica personale. Molti di noi hanno dichiarato infelice questo tentativo di innovazione, alcuni anzi l'hanno trovato inammissibile. Così veniamo al punto più grave dell'intera faccenda, alla vostra richiesta di essere dimesso dalla carica e impiegato nelle scuole esterne. Il richiedente avrebbe dovuto sapere a priori che l'autorità non può accogliere un'istanza presentata così, all'improvviso, e così singolarmente motivata, e non può affatto approvarla. Va da sé che l'autorità risponde negativamente. Knecht lesse lo scritto senza aspettarsi granché, ma con la massima attenzione. Quale valore poteva avere la risposta e chi poteva esserne l'autore? Si capiva chiaramente quanto la richiesta di Knecht fosse giunta a sproposito, incomoda, persino molesta e fonte di scandalo allo scrivente, il quale certo aveva deciso il suo rifiuto fin dal primo momento, anche senza attendere il parere altrui. D'altro canto, si notava contro il dispetto e il rifiuto un movimento opposto, una sensibile simpatia, un desiderio di mettere in rilievo tutti i giudizi moderati e le espressioni amichevoli che si erano udite nella seduta che aveva avuto per oggetto la richiesta di Knecht, e questi non dubitò che autore della risposta fosse stato Alexander, il presidente dell'ordine. Dopo aver letto lo scritto col quale l'autorità respingeva la sua supplica, il maestro provò un leggero brivido, un senso mattutino di freddo, l'indizio che era giunta l'ora e non era possibile attardarsi oltre. Questa singolare impressione che egli chiamava risveglio gli era ben nota da altri momenti decisivi della sua vita. Era un misto di commiato e di partenza, stimolante ad un tempo e doloroso, che scrollava il fondo della coscienza come una burrasca di primavera. Guardò l'orologio. Aveva un'ora di tempo prima di tenere una lezione e decise di dedicare quell'intervallo alla meditazione. Si avviò quindi verso la pace del suo giardino, accompagnato però da un verso che all'improvviso gli era venuto in mente: che in ogni inizio è chiusa una magia. Lo ripeteva tra sé senza sapere in quale poeta l'avesse mai trovato. Il verso però era di suo gusto, gli piaceva e rispondeva esattamente all'esperienza di quel momento. Mentre poi ritornava verso l'aula, quel verso gli si ripresentò e, rimuginandolo, intuì che non doveva essere esatto. A un tratto la memoria gli si rischiarò e gli venne in aiuto. Mormorò quindi come tra sé: ogni inizio contiene una magia che ci protegge e a vivere ci aiuta. Ma soltanto verso sera, quando la lezione era finita da un pezzo ed egli aveva sbrigato un mucchio di altri lavori, scoprì l'origine di quei versi. Non erano di qualche poeta antico, ma facevano parte di una poesia che egli stesso aveva scritto da studente, e terminava così: su, cuore mio, congedati e guarisci. Poco dopo mandò a chiamare l'ombra e lo avvertì che l'indomani sarebbe partito per un tempo indeterminato. Gli affidò tutti gli affari correnti con brevi delucidazioni e si accomiatò cortesemente, come faceva ogni volta prima dei suoi viaggi di servizio. Ormai si era reso conto che doveva lasciare Tegularius senza metterlo a parte delle sue intenzioni e imporgli il peso dell'addio. Bussò alla cella di Tegularius con lo strano senso che quella era l'ultima volta e lo trovò solo, sprofondato nella lettura. L'amico lo salutò con gioia e, messo da parte il libro, lo pregò di accomodarsi. «Oggi mi è venuta in mente una poesia», incominciò Knecht, «o almeno alcuni versi di essa. Tu saprai forse dove trovarla». E citò: «Ogni inizio contiene una magia». Il ripetente non stette a riflettere molto. Dopo un istante rammentò e, alzatosi, andò a prendere da un cassetto il manoscritto autografo che Knecht gli aveva donato a suo tempo. Cercò e ne estrasse due fogli che contenevano la prima stesura della poesia. Li porse al magister, dicendo con un sorriso: «Ecco, agli ordini del reverendo. È la prima volta dopo molti anni che vi siete degnato di ricordare le vostre poesie». Evidentemente, il titolo della poesia era nato ancor prima dei versi, quando non era scritta neanche la prima riga. Era buttato là, a grandi lettere, con scrittura tempestosa, e diceva «trascendere». Soltanto più tardi, in altri momenti, in altre condizioni di vita e di spirito, il titolo era stato cancellato, insieme al punto esclamativo, e sostituito a lettere più piccole, più sottili e modeste, con un altro che diceva «gradini». Knecht rilesse a mezza voce alcune strofe. «Dobbiamo attraversare spazi e spazi, senza fermare in alcun d'essi il piede. Lo spirito universal non vuol legarci, ma su, di grado in grado, sollevarci». «Da molti anni avevo dimenticato questi versi», disse Joseph, «e oggi, quando me ne venne in mente uno, non sapevo più dove l'avessi conosciuto, né che fosse mio. Ma è ora di andare. Com'erano belli quei tempi, caro compagno, in cui studenti entrambi potevamo spesso permetterci di trasgredire il regolamento e continuare a conversare fino a notte fonda. Come magister non si può più farlo. Peccato». «Oh, si potrebbe», osservò Tegularius, «ma non se ne ha il coraggio». Knecht gli mise una mano su una spalla ridendo. «Mio caro, In quanto a coraggio, sarei capace di ben altri tiri. Buonanotte, vecchio sofista. Lasciò la cella contento, ma incamminandosi per i corridoi e per i cortili, nella notte deserta, si rifece serio, pensando al distacco. Rientrò nel suo appartamento. Scrisse ancora alcune lettere, avvertendo tra l'altro dei signori che sarebbe arrivato nella capitale e, con accurata meditazione, si liberò dell'inquietudine di quel momento, al fine di avere l'indomani l'energia necessaria per il suo ultimo dovere nella Castalia, parlare cioè col direttore dell'ordine. La mattina seguente si alzò all'ora solita, ordinò la vettura e partì. Pochissimi se ne accorsero e nessuno vi fece caso. Nella prima mattina, velata dalle nebbie dell'autunno precoce, si diresse a Irsland, dove arrivò verso mezzogiorno, e si fece annunciare al magister Alexander, il presidente dell'ordine. Recava con sé, avvolto in un panno, un bel cofanetto di metallo che aveva tolto da un cassetto segreto del suo ufficio e che conteneva le insegne della carica, il sigillo e le chiavi. Nella stanza grande della direzione fu accolto con un certo stupore, perché non si era visto quasi mai un magister arrivare senza preavviso o senza invito. Per incarico del direttore dell'ordine fu rifocillato. Ricevette una cella nell'antico chiostro perché potesse riposare e gli fu detto che il venerabile sperava di essere da lui fra 2 o 3 ore. Si fece dare una copia della regola dell'ordine e, ritiratosi nella cella, lesse tutto il fascicolo, assicurandosi ancora una volta della semplicità e legittimità dei suoi propositi, dei quali, persino in quel momento, gli pareva impossibile indicare con parole il significato e il diritto. Com'era singolare la posizione di lui adesso, di Joseph Knecht e del suo spirito. Quel suo modo di afferrare e conoscere e di vivere la realtà che egli chiamava risveglio non l'aveva considerato in altri tempi, anzi fino a ieri, come una graduale avanzata verso il cuore del mondo, verso il centro della verità, come un che di assoluto, una via o un progresso che potesse compiersi soltanto passo per passo, ma, in quanto idea, fosse continuo e rettilineo. In gioventù non gli era forse sembrato un risveglio, un progresso, un fatto assolutamente giusto e prezioso riconoscere, sì, il mondo esterno nella persona di Plinio, ma distaccarsene con precisa coscienza di Castalio? E così gli era parso un progresso, una prova di sincerità, quando, dopo anni di dubbio, si era deciso per il gioco delle perle e per la vita di Walzer. E ancora quando dal maestro Thomas si era fatto immettere nel servizio e dal maestro di musica accogliere nell'ordine e quando più tardi si era fatto nominare magister. Erano stati passi, piccoli o grandi, per una via apparentemente rettilinea, eppure oggi, al termine della via, egli non si trovava affatto nel cuore del mondo, né al centro della verità. Anche questo risveglio era stato soltanto un aprire gli occhi, un ritrovarsi in un nuovo settore, un inserirsi in nuove costellazioni. Il medesimo tramite rigoroso, preciso, rettilineo, che l'aveva condotto a Walzel, a Mariafels, nell'ordine, all'ufficio di magister, ora lo riconduceva fuori. Quella che era stata una serie di atti del risveglio era un tempo una sequenza di addii. Scendeva il crepuscolo ed egli era rapito e immerso nel gioco dei suoi pensieri allorché bussarono alla sua porta. Poiché il magister non si riebbe subito e non rispose, quello che era di fuori aspettò un momento e provò una seconda volta, leggermente. Ora Knecht rispose, si alzò e seguì il messo che lo condusse nell'edificio della direzione e, senz'altro annuncio, nel gabinetto di lavoro del presidente. Maestro Alexander gli andò incontro. Peccato che siate venuto senza preavviso. Ho dovuto farvi aspettare. Sono curioso di sapere che cosa vi porti qui così improvvisamente. Spero che non sia niente di male. Knecht rispose ridendo. No, niente di male. Ma arrivo davvero all'improvviso e davvero non potete immaginare che cosa mi abbia spinto a venire. Alexander lo guardò negli occhi, serio e preoccupato. Sì, certo, posso immaginare varie cose. Già in questi giorni pensavo, ad esempio, che la faccenda del memoriale non poteva chiudersi così, nei vostri riguardi. L'autorità ha dovuto dare una risposta alquanto succinta, e forse in senso e in tono che per voi, domine, saranno stati una delusione. No, rispose Knecht. In fondo posso dire che non aspettavo risposta diversa in quanto al senso. Il tono, poi, proprio il tono mi ha fatto bene. Con un velo di asprezza, il presidente dell'ordine disse: ci rallegra sapere che la vedete così e che il nostro scritto non vi ha sorpreso dolorosamente. Ne siamo molto lieti. Ma non riesco a capire una cosa. Se nello stendere e spedire il vostro scritto non speravate, ho capito bene, in un esito positivo, anzi eravate già certo del fallimento, perché mai avete portato a termine, messo in bella copia e inoltrato la vostra circolare, che vi deve pur essere costata molta fatica? Knecht rispose guardandolo cortesemente. Signor Presidente, il mio memoriale aveva due contenuti, due intenzioni, e io non credo che entrambe siano state del tutto vane e inefficaci. Esso conteneva la richiesta di essere esonerato dalla carica e impiegato altrove. Mi era lecito considerare questa supplica personale come cosa relativamente secondaria, dato che ogni magister deve possibilmente trascurare ciò che riguarda la sua persona. La supplica fu respinta e io dovetti rassegnarmi. Il memoriale però conteneva, oltre alla supplica, una quantità di fatti e di idee che consideravo mio dovere portare a conoscenza dell'autorità e raccomandare alla sua considerazione. Tutti i magistri, o almeno la maggioranza di essi, hanno letto le mie comunicazioni, per non dire esortazioni, e se anche i più hanno inghiottito questo cibo soltanto malvolentieri e hanno reagito con un certo dispetto, pur tuttavia l'hanno inghiottito, hanno prestato orecchio a ciò che ritenevo di dover dire. Se non l'hanno accolto con favore, non vuol dire che sia stato un fallimento. Io non cercavo affatto plausi e consensi. Volevo piuttosto scuotere e seminare inquietudine. Né la predica né la supplica erano cose consuete, quotidiane e normali, ma entrambe andavano collegate già per il fatto di essere insolite, nate dal bisogno e fuori delle convenzioni. Non è né consueto né normale che, senza urgenti motivi esteriori, un uomo si metta a scongiurare i colleghi perché ricordino che sono mortali e che tutta la loro esistenza è problematica, né è consueto e quotidiano che un magister Castalio concorra a un posto di maestro di scuola fuori della provincia. In questo senso, i due contenuti del mio scritto si accordano benissimo. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.